Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci, 21.03, questa è Blu Radio Veneto. È il caso di dire che questa settimana la finiamo splendidamente con un duo meraviglioso, insomma. Abbiamo i Deja questa sera, ma comunque ne parleremo tra qualche istante. Prima di tutto devo salutare il mio nonnetto, che immancabilmente c'è. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Anche di venerdì abbiamo finito la settimana splendidamente. È il caso di dire che alla faccia della come dire, della scaramanzia, oggi è venerdì 17. Sì, ma per la musica non c'è venerdì 17. Tutti sono venerdì 17 per la musica. Si suona sempre, basta. Si suona sempre. Buonasera Maurizio. Buonasera Agostino. Poi abbiamo l'ospite estivo che ci è venuto a trovare. Sì, la new hate estiva. Ciao Gilles, benvenuto anche questa sera. Grazie, ciao Ago, Maurizio, Serena, Andrea e tutti voi. E poi abbiamo appunto questo duo, questo come dire, questo progetto straordinario secondo il mio modesto punto di vista, che questa sera poi avrete modo di apprezzare anche voi, cioè i Deja, nella fattispecie con Serena Finatti. Buonasera a tutti. E con Andrea Vanier. Ciao a tutti. Benvenuti a Blu Radio Veneto intanto. Grazie a voi di averci invitati e ospitati. Qualche istante per dare qualche notizia inerente alla nostra emittente, cioè i nostri numeri telefonici con in studio allo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza. Poi ancora il nostro sito www.bluradioveneto.it e lì ci potete tranquillamente ascoltare in streaming 24 ore su 24. Basta semplicemente andare nella home page, sulla sinistra c'è questa scritta ascolta la radio, cliccando lì si ascolta la radio, appunto, ripeto, 24 ore su 24. E poi ci sono tutte le notizie, quindi potete curiosare tranquillamente. Ci sono anche i podcast da scaricare se qualcuno volesse risentire e appunto avere anche nel proprio PC un'intervista che abbiamo fatto in questa emittente, la può fare tranquillamente, gratuita in qualsiasi momento, quindi basta che cliccate su scarica la trasmissione e lo potete tranquillamente fare. Poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, che ricordiamo è ancora in ferie, lo ritroverete il 30 se non sbaglio. Sì, sì, esattamente, giovedì 30. Con la sua classifica, la sua musica rock. E poi cosa devo dire? Ci trovate anche su Twitter, ma insomma siamo dappertutto, siamo ovunque, ma soprattutto ci siamo per far ascoltare la musica, la bella musica, e questo, secondo, consentitemi di dirlo, è un vanto di questa emittente. La bella musica la trovate sempre esclusivamente qui, e questa sera ce la regalano loro, i Deja. Serena, una cosa molto importante della tua formazione musicale: ti sei trasferita giovanissima per un po' di tempo nell'Uzbekistan. Sì. È stato molto importante musicalmente. Ma si dice che da piccoli si assorbe tutto ciò che è attorno, i suoni, gli odori, le immagini. Quindi io avevo 5 anni quando sono partita, ho fatto la prima elementare a Circik, in realtà. Che è una cittadina, una città o una cittadina? Ma è un buco. È un buco. Perfetto. Sì, sì, tra l'altro nei miei sogni ci sarebbe la voglia di tornare per vedere come è diventata, insomma. Comunque era, sì, un posto piccolissimo, c'erano come la mia famiglia anche altre famiglie italiane, e poi attorno c'erano anche i quartieri dove vivevano proprio quelli, la gente del posto. Sì, ho vissuto lì quasi 3 anni. E devo dire che credo che sia stato che mi abbia condizionato a livello musicale. Sì, questo. Perché l'input è scattato là, secondo me, perché certe sonorità del disco nuovo, anche del disco vecchio, ma soprattutto del disco nuovo, quello che stiamo esaminando, che esamineremo fra poco, qualche momento, hanno qualcosa che arriva da là, secondo me, che parte da là. Forse, io adoro i tempi dispari. Ecco, appunto, uno è questo. Sì, e poi... credo forse anche certi sapori un po' orientali. Orientali, sì. Perché comunque mi trovavo nella Russia asiatica, quindi sotto gli Urali, di conseguenza, insomma, siamo lì. Siamo là. Poi hai cominciato a studiare il pianoforte. A dire la verità... Non è proprio così. No, è così. La tua biografia dice questo. Sì, hai ragione, hai ragione. Assolutamente. Hai fatto bene a dire questo. Sì, è vero. Io ho iniziato lì a suonare il pianoforte, solo che lì... hanno dei modi un po', diciamo, come dire, incisivi, ecco. E io sono sempre stata una bimba, per quanto così vivace, abbastanza sensibile, addetta dei miei genitori, e quindi diciamo la prima lezione ho preso delle bacchettate incredibili sulle mani perché non stavo nella postura giusta. Poi ho fatto qualche altra lezione e ho capito che pianoforte e che la musica sarebbero stati importanti per la mia vita, nella mia vita, ma non ho continuato lì. Ho continuato poi, tornando a casa, un po' di anni dopo. Ma è la verità, comunque, ho iniziato lì a far pianoforte. Bene, è una cosa molto positiva questa, secondo me, questo inizio sì, musicale. Sì, cosa vuoi dire? Sì, beh, a parte la mia grande curiosità su Serena e Andrea, sentire la voce, gli strumenti, perché sto scoprendo delle cose completamente nuove, con grandissima curiosità prima quando usavi gli strumenti che poi sentiremo. Come si può dire, si riflettono poi durante la canzone, molto bello. No, volevo un po', Serena, la presentazione del tuo blog, che si presenta come cantante, cantautrice, attrice, scrittrice di storie per bambini e regista. Sono tantissime cose, riusciamo a abbinarle tutte? Allora, sì. Diciamo che il mio lavoro, cioè quello che mi dà da vivere, è il teatro, e per cui io scrivo gli spettacoli teatrali destinati ai bambini, quindi teatro ragazzi, e completi di musiche e di copione, e poi recito gli spettacoli che scrivo assieme ai miei colleghi, che saluto, Enrico e Chiara, i miei mitici colleghi, la mia squadra di lavoro. E poi sì, faccio la regia di alcuni degli spettacoli che facciamo, ci alterniamo, diciamo, la nostra compagnia è una compagnia grande, quindi il teatro ragazzi è soltanto uno dei rami che affronta. Che poi magari approfondiremo attimino, certo. Che non è la musica terapia, no, che parlavamo ieri sera con Anna Maria, sono due cose diverse, però diciamo che faccio teatro per i bambini, ma anche con i bambini, e lì secondo me c'è della terapia, perché i bambini, anche quelli che magari a scuola hanno difficoltà ad esprimersi, ecco che a teatro, su un palcoscenico, riescono a comunicare e a dire le cose in un modo nuovo, si riscoprono, e quindi secondo me è terapia in qualche modo. Certo. Sì, vai. No, volevo dire, ci saranno tantissime cose da parlare con Serena e Andrea, no? La serata non sarebbe sufficiente, sicuramente, le due ore, sarà difficile, no, Agostino, fare una sintesi. Insomma, cerchiamo di dare la più ampia informazione possibile su questo duo, insomma, che io, cioè, veramente l'ho apprezzato subito quando l'ho scoperto per caso, grazie a Giulia Daici, lo devo essere, che salutiamo, che stasera sta facendo un concerto, ed è grazie a lei, insomma, che ti ho scoperto, che vi ho scoperto. E però il progetto che state facendo voi è veramente splendido, e quindi a me dispiace, sinceramente, ve lo dico con il cuore, che un duo così con la vostra musica faccia difficoltà ad emergere in Italia, perché io so che voi siete stati moltissimo all'estero, avete fatto un tournée, ma magari poi ne parleremo. Io direi, se voi siete d'accordo, di rompere il ghiaccio. Sì, dai. So che sei là che fremi tu. Ma sì. Cosa pensate di farci ascoltare? Allora ascoltiamo qualcosa dal disco, subito qualcosa dal vivo, voi siete... Sì, dai, qualcosa dal vivo, così rompiamo bene questo ghiaccio. E Andrea, presenti tu il pezzo? No. Volevo dire, appunto, facciamo sentire anche la voce di Andrea. Esattamente. D'accordo. Devo presentarlo io. Allora, il pezzo è Meta, è una dichiarazione di intenti, direi, no? Quindi è il miglior modo di iniziare la serata. E la meta è appunto quello che uno cerca nella vita, l'obiettivo, il suo scopo, insomma, la realizzazione personale, come in questo caso come artista o come così, ma anche nella vita di tutti i giorni, quello che uno può. E questo è dall'ultimo dal primo disco. Dal primo disco in duo, poi sì, perché poi il progetto è un po' più vecchio di questo disco. Esatto. Ok. Radio da pace, voglio andare dove so che il mio volto avrà una luce, la coscienza dice vai. vi posso garantire, ve lo dico con il cuore in mano, che non è un gruppo, non è una band, c'è un musicista e una cantante. Fanno di quei suoni, sono bellissimi, meravigliosi. Complimenti Andrea, sei bravissimo. Grazie. Dal vivo ancora di più. Ragazzi, se questo è l'inizio... È un mantra percussivo, cioè sotto un mantra percussivo, Andrea, tu hai colorato il pezzo, assolutamente l'hai allargato, l'hai rimpicciolito a seconda del tuo umore musicale. C'era un mantra percussivo continuamente, sì, andava, esatto, che continua ipnoticamente. E poi Serena... dava, veniva, si muoveva, dava il suo tocco. Cercavo di rompere il ghiaccio. Il ghiaccio. Andrea, questo quindi è un lavoro particolare, perché poi magari entriamo un po' anche nella storia di Deja, no? È un particolare perché rappresenta in pratica, correggetemi se sbaglio, il vostro primo lavoro insieme. Sì. Ah sì. Perché Deja esisteva in praticamente già con Serena e poi altri componenti del gruppo, poi un po' alla volta si è disunito. E anche non tanto un po' alla volta. Io ho detto un po' alla volta, ho letto un po' che... Sì, cioè, nel senso ci sono stati vari cambiamenti di organico, però poi quando è arrivato Andrea c'era un organico bello... corposo, classico gruppo, batteria, e c'era la fisarmonica, tastiera, poi che c'era? La voce, giustamente, violino e basso. E poi è arrivato Andrea e prima si parlava fuori onda della motivazione, cioè dell'obiettivo, cioè quanto uno desidera arrivare a un obiettivo. E i problemi del gruppo sono questi, cioè può essere che su 5 persone 2 abbiano la stessa spinta e gli altri 3, o ne basta uno che non abbia la stessa spinta, ed è solo questione di tempo, si sfalda, cioè questa è la mia esperienza personale. Infatti i gruppi che continuano a vivere, io penso che sia, non dico un miracolo, ma... Io ne conosco uno. Sì, purtroppo lo so che lo conosci. Purtroppo lo conosci. No, purtroppo, sto scherzando. Io ne conosco un altro, si chiamano Rolling Stones. Ah, ecco. Io non faccio nomi perché tanto lo conoscono tutti. Sì, esattamente. Però una cosa volevo chiedere a Andrea. Andrea veniva dal metal, era un metallaro. Sei ancora un metallaro. Fondamentalmente sei un metallaro. Però sì. Ti sei buttato, hai visto la chitarra acustica e hai lasciato momentaneamente la chitarra di metallo, cioè la chitarra aggressiva, trasgressiva, per la chitarra acustica. Come mai, Andrea? Ma non è che mi sono proprio buttato, anzi, è stato un percorso di avvicinamento graduale e anche... È stato Tommy Emanuele che ti ha dato la spinta a questo. Esatto, mi ha dato... preparatissimi, Sì, più di me, San. No, è stato che praticamente... avevo iniziato a appassionarmi alle sonorità, al suono della chitarra acustica, perché mi piaceva. Ti piaceva? Mi piace proprio. Perché fondamentalmente un metallaro ha qualche ballata acustica, assolutamente. Ma a parte il suono proprio, no? Il discorso del suono proprio della corda di metallo, mi piace molto. Però ascoltando Michael Hedges oppure altre chitarristi che così iniziavo un po' a conoscere, e avevo il grosso problema, cioè avevo diversi problemi. Il primo era l'accordatura, perché come appunto Michael Hedges, basta conoscere un po' i brani, ogni brano ha un'accordatura diversa, e per me che non potevo comprarmi le corde ogni momento, gira domani, si rompono, e non era facile. Poi comunque non mi trovavo, perché non è che venendo da tanti anni di accordatura standard conosci gli accordi, conosci le posizioni di una accordatura, e cambiarne per ogni pezzo un'altra significa cambiare completamente i rapporti tra le corde, gli accordi, eccetera. Era molto difficile. Poi un'altra cosa erano le unghie, che io al tempo non pensavo di poter usare sull'acustica, perché pensavo di averle troppo sottili, eccetera. Ma questo è un altro discorso. E quindi diciamo che quando ho visto Tommy Emanuel, accidenti, lui suona praticamente coi polpastrelli, è tutto in standard, e quindi ed era un cannone, cioè è una cannonata, quindi io l'ho visto e sono rimasto folgorato e ho detto ecco, e mi ha come mostrato la via, per entrare, da percorrere, esatto. E quindi da lì ho iniziato veramente a dedicarmi, perché avevo qualcosa su cui poter studiare, no? Qualcosa di immediato, immediato, magari 8 ore al giorno a cercare di provare i suoi pezzi, però avevo, come si dice, come ho detto prima, l'avevo la strada indicata, cioè sapevo in che direzione dovevo andare. Però tu hai aperto il concerto Steve Howe, quindi un mostro sacro. Sì, dopo è stata la cosa bella, perché ho capito che ero sulla buona strada, quando l'anno dopo, quindi solo un anno di distanza, un anno dal mio lancio acustico, diciamo, ho vinto il concorso a Sarzana, il New Sounds of Acoustic Music, e, con grande mia soddisfazione, e poi il premio era appunto aprire il concerto dell'anno dopo, che diciamo il caso ha voluto, il destino ha voluto che fosse Steve Howe. Mostro sacro. Esatto. Chi non lo conosce, è assolutamente un mostro sacro. E, tra l'altro, io da grande fan degli Yes ero veramente contento di questa cosa. E, sì, comunque diciamo appunto non è stato proprio un tuffo nell'acustica, ma è un avvicinamento. Sì, graduale, ma sì, che comunque mi sta dando molte soddisfazioni, anche perché è proprio il suono, il mio suono, finalmente ho trovato quello che mi piace veramente suonare. Ed è un suono sicuramente. E partono gli Yes sotto. Sì. Ago è sempre molto prontissimo, sempre puntuale, prontissimo con queste cose qua. Comunque è un lavoro che alla fine vi ha dato delle grandissime soddisfazioni, anche perché come il suono di questa chitarra mi sembra che proprio vada ad esaltare il tuo modo di cantare, come sbaglio. Oppure il mio modo di cantare esalta il suono. Ecco, mettiamolo anche così, subito. Ecco, quindi comunque è un lavoro che va dato delle grosse soddisfazioni, come primo impatto, come primo lavoro assieme. Sì, abbiamo realizzato 2 dischi insieme. Il primo si chiama Distratti dal vento e l'ultimo si chiama Laila ed è stato il frutto, il premio del concorso che abbiamo vinto a Osnabrück in Germania, Open Strings, un concorso per cantautori alla fine, un concorso internazionale, quindi ci siamo trovati a gareggiare con persone che arrivavano un po' da tutta Europa, insomma. E cioè la Serena ci ha raccontato qualche aneddoto su questo concorso, sul finale di questo concorso, lo puoi ricontare in diretta, siamo assolutamente molto molto divertente, ma molto significativo per il modo di portare avanti del concorso da parte del direttore del concorso, questo straordinario musicista. Sì, stiamo parlando di Peter Finger. Esattamente. Sì, un grande musicista, è una persona incredibile, di una umiltà, di una disponibilità uniche. Anche un bell'uomo. Sì, devo dire che anche sposato, felicemente sposato. E, che dire, sì, noi, l'esperienza avuta in Germania, Osnabrück, è stata indimenticabile. C'è da dire che noi abbiamo spedito il materiale, cioè il CD contenente 2 brani, perché richiedevano proprio 2 brani. Per inediti, chiaramente. Inediti, certo. E abbiamo spedito, cioè Andrea ha spedito il CD l'ultimo giorno utile, che era il 31, non so di che, di agosto, non so, comunque l'ultimo giorno. E, tra l'altro me l'ha detto, ma io proprio l'ho messo nel dimenticatoio questa spedizione, questo intento, perché ho detto in Germania, io canto in italiano, questi qua manco mi chiameranno, manco mi prenderanno in considerazione. E invece siamo passati fra i primi 5 e siamo andati a disputare la finale a Osnabrück. Quindi per me era la prima volta che insomma avevo la possibilità di portare i miei brani, la mia musica all'estero. Ci tenevo tantissimo a fare una bella figura, ovviamente, tutti sti chilometri, perché poi Osnabrück è verso nord, giusto? No, perché 1100 chilometri da casa nostra. Quindi. Siamo andati quella volta in aereo. In aereo, sì. Perché poi ci siamo tornati in macchina invece. Vabbè, è altra storia. Comunque, insomma, facciamo questo, andiamo là, facciamo, ci stupiamo dell'organizzazione, tedeschi. Pazzesco, puntualissimi. Poi noi giravamo per questa cittadina e non vedevamo neanche un manifesto di questa manifestazione, se non di fronte al luogo dove si sarebbe tenuta. Ci siamo guardate e abbiamo detto: qua non verrà un cane. abbiamo fatto tutti questi chilometri. Mi credete, il corso, il concorso era il primo pomeriggio, all'una. Era pieno, ma di gente di tutte le età, maschi, femmine, no, insomma, una moltitudine. Stupefatti, già c'era l'adrenalina, c'era cominciato a salire. Insomma, ci esibiamo. Prima avevamo fatto un pezzo che si intitola Di te, no, non so, che sentirete poi dal disco. E verso la fine io uso appunto queste macchine e sbaglio. Ma no, no, non si dice? Vabbè, come si dice, dai, siamo, è stata un'imperfezione, siamo qua fra amici, d'accordo. Insomma, sbaglio, dentro di me parte la furia, accidenti, ho sbagliato tutti questi chilometri e io ho sbagliato i miei pezzi, arrabbiatissima. Secondo pezzo sbaglia Andrea, non è vero. Sempre il loop, no? E dietro le quinte, arrabbiatissima. Il mio problema era che avevo fatto, secondo me, un errore grave e non avevo suonato bene appunto i miei brani. In realtà non era un errore grave, perché era semplicemente una cosa che non è stato fatto, ma la gente non conosceva il brano, quindi non era un errore. Insomma, la mia preoccupazione era di suonare bene. Secondo me avevo suonato male, invece abbiamo vinto. Cioè, proprio così sintetizzato, però abbiamo vinto, d'accordo. Sì, e devo dire che mi sentivo un pesce fuor d'acqua, come vi dicevo prima, come in tutti i concorsi ai quali ho partecipato. In effetti era molto che non partecipavo ad un concorso, quindi insomma, magari veramente a settembre ne parteciperemo a un concorso. Sì, difatti ti volevo dire di non saltare di palo in frasca. Come faccio sovente. Esatto, infatti adesso stavo pensando, adesso dice il concorso. No. Ne parliamo dopo. Ne parliamo. Sì. E in ogni caso mi sentivo un pesce fuor d'acqua e invece in quel caso il fatto di sentirsi un po' fuori dalla corrente è stato premiato, insomma. Certo, esatto. Che poi Finger, è stato fondamentale nell'ultimo vostro lavoro. È stato, praticamente era il premio, consisteva nella realizzazione di un CD prodotto e distribuito dalla sua etichetta. Che è appunto questo, giusto? Sì, Agostino, sì. Ecco, tra l'altro volevo chiedere appunto chi è questa bambina che avete rappresentato in questo disegno, secondo voi? Tu da piccola? Bravo! Sì, è irriconoscibile, Infatti, infatti. Ma sì, anche una copertina che oltretutto molto carina, sì, assimila secondo me anche il vostro modo di cantare, di suonare. Grazie, sì. Grazie. Noi lo pensiamo, ma nessuno ce l'aveva mai detto, quindi grazie. Sì, tra l'altro il disegno è stato realizzato da Paola Macchetta, che è una nostra carissima amica, nonché una grande nostra fan. Che la salutiamo, esatto. Sì. E ha realizzato sia il disegno della copertina che ovviamente i disegni all'interno. Infatti, e anche la confezione, sto guardando. Anche la confezione è la confezione come si usava una volta. Sì. Ah sì, tra l'altro questo è molto importante. Su questo punto avrei una cosa da dire. Dimmi. In realtà il premio di questo concorso consisteva nella realizzazione di un CD standard, quindi con la custodia rigida. Quella normale. Sì, solo che io sono, diciamo, molto attenta all'aspetto ambientale, ecologico, e avevo chiesto a Peter se poteva essere realizzato invece in cartoncino, insomma. E siccome costa molto di più, sul momento mi ha risposto no. E poi invece... Poi si sono chiusi in una stanza. No! E quando sono usciti, LCD... Ma cosa dici? No! Poi devo dire che noi vogliamo pensare questo, che quando siamo andati lì per registrare il disco, abbia sentito i nostri brani, il nostro progetto, e abbia pensato che ne valesse la pena. E ha fatto lo stesso numero di coppie, però con questa confezione, sì. Che è molto bella. Molto bella, sì. Molto di una volta. Molto di una volta, ed ecologica. Ed ecologica, esattamente. Infatti mi ricorda un po' qualcosa, qualche copertina del gruppo che ti parlavo prima, insomma. Cioè, sempre, cioè... Sì, sì, 1971. Più o meno. Cari ascoltatori, voi avete capito, non so se Serena ed Andrea hanno capito. Che io gruppo... forse una mezza idea ce l'avrei. Sì, c'hai una mezza idea. Non vorrei far brutte figure, quindi me la tengo. Il disco cominciava per A di quel gruppo e finiva per A. E dimmi l'iniziale del gruppo. L'iniziale del gruppo è P iniziale e poi H finale. È brava. Sono proprio. Comunque... E Alessandra è il disco del 71. Uh-huh. È il disco che Alessandra aveva una bambina in copertina. Ho capito. E questo è il motivo. Serena, dimmi. Ecco perché ci hai chiamati. Volevo chiederti questo titolo di questo disco, da cosa nasce? È un tuo diminutivo, Laila? Poi non è il mio diminutivo, sentirete il brano poi, e il ritornello è proprio Laila, che potrebbe essere quando cantichi una canzone, fai Laila, oppure potrebbe essere anche il nome di una bambina. Infatti io pensavo fosse il nome di questa bambina, per quello te l'ho chiesto, insomma. Sì, ma è proprio quello che vogliamo spingere, cioè che uno possa pensare anche questo, no? Certo. Quindi che sia un nome simbolico, perché il pezzo, me lo presento dopo, accidenti, passo di palla in frasca in una maniera. Presentaci invece la prossima canzone che ci fai dal vivo, dai, sì. Che ci ascoltiamo qualcosa di vostro, insomma. Va bene, allora il pezzo si intitola Credo alle favole, ed è un brano che io ho scritto per consolare un'amica, che saluto, che probabilmente mi sta ascoltando, spero, ed è Sara. E questo pezzo è dedicato a lei, che immagino che sia capitato a tutti di dover consolare un'amica o un amico dopo la fine di una storia d'amore. A me è capitato con lei e io le ho semplicemente detto: forse era solo la favola sbagliata, la fiaba sbagliata. Credici. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Piove, c'è il sole, come se il cielo cercasse il suo vero umore. Parlami ancora, amica mia, credo alle favole. Corrono le ruote, corre la mente, seguita a cercare l'ordine, il senso logico, provare a chiudere il cerchio, lasciasi andare a nuove geometrie. Guarda quel tronco d'albero, tanto avrà atteso la luce del sole che si è ravvolto su di sé fino a confondersi. Ora lui chissà se i raggi caldi sentirà, sarà contento o solo stanco. Piove, c'è il sole, come se il cielo provasse ad accontentarci. Non preoccuparti, amica mia, credo alle favole. Corrono le ruote, corre la mente, seguita a cercare l'ordine, il senso logico, provare a chiudere il cerchio, lasciasi andare a nuove geometrie. È già passato un anno ormai e sulla pelle di nuovo c'è il sale. Quanto hai atteso, amica mia, senza confonderti. Ora tu chissà se i raggi caldi sentirai. Corrono le ruote, corre la mente, seguita a cercare l'ordine, il senso logico, provare a chiudere il cerchio, lasciasi andare a nuove geometrie. Corrono le ruote, seguita a cercare, provare a chiudere il cerchio, lasciasi andare a nuove geometrie. Corrono le ruote, corre la mente, seguita a cercare l'ordine, il senso logico, provare a chiudere. cerchi, lasciarsi andare a nuove geometrie. Corrono le corde, seguiti a cercare, sull'oggi rubare, chiudere i cerchi, lasciarsi andare a nuove geometrie. Su questa strada un giorno noi ricorderemo quel cielo indeciso e sorridendo mi dirai: credo alle favole. Si può applaudire? Certo, certo, si può applaudire. Meritatissimi, veramente applausi, perché Serena e Andrea sono straordinari, insomma, veramente state stupendo ancora di più dal vivo. Grazie, grazie. Serena si fa proprio cullare comunque dalle tue note, o mi sbaglio? No, no, non ti sbagli, certo. Andrea è la mia forza. È una cosa molto bella che c'è sulla presentazione di questo disco: Andrea e Serena hanno scritto nel Facebook le note di ogni pezzo, hanno spiegato l'andamento di ogni pezzo. Questo è molto interessante per entrare proprio nella dinamica del pezzo. Tu hai detto: la prima strofa del brano inizia in minore, uh-huh, e la seconda strofa melodicamente rimane uguale, uh-huh, e poi hai soggiunto: ma armonicamente passa nel modo maggiore, perché io credo nelle favole. Uh-huh. L'arrangiamento di questo pezzo, la creazione del pezzo è tua. Sì. Andrea, cosa ci ha messo? Allora, come accade praticamente in tutti i brani, a parte qualcuno, io faccio la parte melodica e armonica, servendomi del pianoforte fondamentalmente, ma a volte anche soltanto lo faccio con la voce, dipende insomma. E poi registro tutto su Cubase e passo il malloppo ad Andrea. Andrea, che sente, che esamina, che sì, allarga, restringe a seconda. Diciamo che nel pezzo Credo alle favole c'è il discorso del minore, del, sì, maggiore. È proprio così il pezzo. Non è cambiato. Non è cambiato, no, perché proprio si parla di un certo tipo di sentimento quando si, nella prima parte dove è minore, sì, quindi un po' più triste, melanconico, certo, e poi si apre invece armonicamente in maggiore, anche se la melodia rimane e sono le stesse note. Sì. Quindi sì. Possiamo dire che può essere anche una ballata folk questa, leggermente. Ma sì. Sì, sì. Qualche, all'inizio di Andrea, sì, secondo me era una ballata folk, poi si è sviluppata in una ballata pop, poi è ritornato al folk, a mio parere. Sì, sì, beh, le contaminazioni io le adoro, assolutamente. Per me il futuro è la contaminazione in senso positivo. Per cui l'incontro... Per quello hai studiato musica indiana, vocalizza indiani, secondo me. Sì, può essere, sì. È stata la mia prima insegnante, sì, è stata un'insegnante di canto indiano. A Venezia. A Venezia, sì, sì, sì. È stato un percorso breve ma intenso, perché si è sviluppato nell'arco di un'estate. Però è stato molto, molto interessante. Ce l'hai qualche canzone di quel periodo nella mente? Beh, in realtà... Basta una, qualche una trentina di secondi da fare. Fammi pensare. Pensaci. Beh, in realtà c'è nel disco, nel primo disco fatto con Andrea, Distratti dal vento, l'ultimo brano che abbiamo messo anche in scaletta. Canto proprio un brano popolare indiano e fa Jitenadaro Aguna, e non mi ricordo più come va avanti. Però insomma era uno dei brani che ci ha insegnato, e è straordinaria la vocalità indiana. Beh, loro usano il naso come fosse una marcia praticamente. Cioè, cosa vuol dire? E fanno passare il suono, è molto nasale il suono delle voci delle cantanti indiane, e mi riferisco, dico che lo usano come marcia perché loro hanno delle parti libere di improvvisazione nei loro brani dove improvvisano in akar, si dice, cioè con la vocale A, quindi fanno tutte queste cose e il suono senti che passa proprio dal naso. Vero, hai ragione. Sì, sì. Questo non lo sapevo. Si io, nota, eh. Si nota proprio. Noi siamo qua davanti, Agostino, abbiamo proprio. Cosa dici, Gigi? È proprio così. È si vede proprio. Si il vede, suono. Si vede proprio, si vede. Si vede. Uffa, basta, non parlo più. Allora, vi porto i saluti dal Brasile. Parlavi di marcia, questa è Marcia Gaetano, ci sta ascoltando dal Brasile, che è una conoscente su Facebook. E poi c'è una persona che voi conoscete, tu ci hai già parlato, la Stefania, che vi sta ascoltando e vi saluta. Wow, Va bene. Salutiamo. Salutiamo. Ciao. Oh, certo. La Stefania Schintu della Top One Communication. Che... Ah, sì. Stefania, ah, so, ho avuto un attimo, ho detto, salutiamola, non mi viene in mente esattamente. Sì, sì. Ciao Stefania. Sentiamoci. Sentiamoci. Allora, vi ricordo, questo è Blu Radio Veneto, vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, quello in studio, lo 049-875-6423, e invece se volete mandare qualche sms appunto a questo duo, ai Deja con Serena e Andrea, vi ricordo il numero di sms, è il 346 23 20 033. Se volete, se preferite, potete anche scrivere su Facebook, sulla nostra emittente, cioè Blu Radio Veneto, sulla mia pagina Agostino Spolaore, sulla pagina anche di Serena o di Andrea, insomma io intanto vado a sbirciare se c'è qualcuno che vuole salutarli, mandare qualche domanda, perché no, insomma io poi le leggo, va bene? Wow. Sì, sì. Ecco, io volevo farvi una domanda. Voi in pratica usate solo la voce e una chitarra acustica. Questo è una scelta un po' impegnativa. Spesso i musicisti fanno uso di tantissimi altri strumenti. Dal punto di vista commerciale, potrebbe crearvi dei problemi, oppure è proprio una scelta e siete convinti che questo vi possa portare lontano nel... Non abbiamo fatto una scelta commerciale, ho capito la tua domanda, sì. Perché nel bagagliaio della Ferrari non ci sta tanta roba, quindi la chitarra, il microfono, è una scelta commerciale, insomma, diciamo, non ci interessa più di tanto. No, vabbè, volevamo essere agili. E poi secondo me Andrea è più che sufficiente, cioè Andrea è un musicista eccezionale e penso che non escludiamo di allargare gli orizzonti in futuro e di abbracciare degli altri musicisti nel nostro progetto, però la cosa fondamentale deve essere la motivazione, e a noi ha fermato quello principalmente. E poi abbiamo visto che provando insieme, solo io e lui, le cose uscivano in maniera naturale. Naturale e non so come dire. Certo. Comunque l'originalità ripaga, perché anche noi che vi stiamo, anch'io, perché magari per Agostino non è una novità, però io che vi ascolto, ho imparato ad ascoltarvi oggi, sicuramente, scusate, una cosa che entra. Vabbè, grazie. Sicuramente sentire questo abbinamento nel tempo, sono sicuro che è una cosa che funziona, che ripaga. Gilda ha detto una cosa giusta, l'abbinamento con la voce di Serena, che non è una voce facile la tua, perché varia notevolmente e in modo quasi repentino in alcuni momenti. Andrea è bravo a seguirti, chiaramente c'è un accordo mai perfetto, però è difficile, già come idea è difficile. Sì, è vero, lo ammetto. Sì, niente, io sono così. Sì, ma musicalmente è una bella sfida. Sì, come hai detto giustamente. A volte in passato, ma in passato neanche tanto distante, ho avuto dei periodi in cui mi sono un po' chiusa in me stessa, pensando che magari forse se facessi qualcosa di più semplice, che assomigliasse di più a certe cose che già si sentono, insomma, stiamo parlando della musica commerciale pop, magari riuscirei a farmi notare di più, ma io non lo so fare, cioè, o meglio, se un giorno capiterà, non sarà certo perché l'ho deciso a tavolino. Certo. Io nella musica sono sincera, onesta, do la parte più vera di me, ed è tra l'altro molto pericolosa questa cosa, perché insomma non ci si difende tanto bene quando ci si mette a nudo. Solo che io faccio già teatro dove metto maschere e mi sfogo lì, e nella musica mi viene così naturale essere me stessa e raccontare di me, ma non solo di me, anche di ciò che vedo, sento. Ma credo che se tu avessi una maschera nella musica, prima o poi cadrebbe. Sì, lo penso anch'io. Perché se c'è un prodotto, un progetto, meglio dire alle spalle, sincero, regge. Se invece c'è qualcosa che è costruito apposta solo per fare un CD, ecco che poi al prossimo CD magari viene fuori una cosa che è totalmente diversa e che non è la stessa altezza. Non certo. So se... Sì, sì. Se hai capito cosa voglio dirti, insomma. Sono d'accordo con te. Quindi io credo che, insomma, il fatto che tu sia te stessa in questo in questi lavori che avete fatto insomma assieme ad Andrea, credo sia una tua prerogativa bellissima, insomma una cosa anche nella vita, secondo il mio punto di vista, dovremmo essere sempre così, essere sempre se stessi, sì, con tutte le sofferenze che beh, ci certo, se non possiamo seguono. Essere umani, insomma saremo solamente delle, certo. dei numeri, esatto. Io credo che comunque poi alla fine sia, dopo tutto ci sono anche dei premi che parlano poi alla fine, quindi come tutte le cose bisogna avere la possibilità di farsi poi alla fine conoscere è quello, sì. e poi venire apprezzati per quello che si è, per quello che si fa, cioè quello che diciamo stasera ad ascoltarvi qui in diretta, sentire una chitarra e una voce così coinvolgente significa che nel tempo sicuramente questo è una cosa che ripaga, cioè siete due artisti. È il discorso che facevo all'inizio, no? Mi stupisco il fatto che in Italia non abbiano una risonanza più maggiore. Ascoltate quest'uomo. Ma Serena ha detto una cosa bella all'inizio di trasmissione, ha detto non c'è l'educazione, non c'è la consuetudine a sentire certe cose. Una consuetudine, cioè in Italia certa musica è vicolata in una certa maniera, non c'è niente da fare. Ma la colpa è anche di noi. La colpa è della TV, della radio. La televisione sta uccidendo la radio. Non è vero, non ha ucciso la radio. Lo dicevano i Bagos tanti anni fa. Video Killer, Radio Star. Non è vero, assolutamente. La radio esiste ancora. E la radio dà la possibilità, non perché siamo qua dentro stasera, ma dà la possibilità di far sentire anche il duo di Serena e di Andrea. Sì, ma non tutte le radio, Maurizio. Anzi, sì, ma secondo me lentamente le cose stanno cambiando. Sì, lo voglio pensare. C'è un ritorno, c'è un ritorno alla vera radio. La gente è stanca di sentire sempre le stesse cose. Diciamo anche un'altra cosa, che la gente è stanca. È stanca, sì. Questo è, cioè, stiamo attraversando un periodo storico alquanto complicato e pesante. Diciamo che la musica diventa soltanto una cosa che sta sotto, no? La musica d'accompagnamento, di sottofondo. E uno non ha voglia di pensare, non ha voglia di capire, di riflettere. E se lo fa, magari in momenti, cioè leggendo un libro forse, chi ha tempo. La musica prende quella che arriva, no? Prende quella che arriva e accendi la TV o qualche radio e ascolti la musica, quella musica lì, e magari non ti piace, ma non te ne rendi neanche conto, ascolti quella, e a forza di sentirla sempre quella va a finire che la canticchi e dici beh, non è male, per forza. Sì, io penso che la voglia, l'educazione musicale dovrebbe partire sin dalle scuole e fare veramente lezioni di musica, ma in maniera libera, aperta, far ascoltare ai bambini la musica, tutto quello che c'è, tutto quello che è possibile. Solo così possiamo sperare in un futuro più sensibile, in questo senso. Noi non siamo stanchi, assolutamente, e quindi noi abbiamo sempre voglia di ascoltare qualcosa dal vivo. Chi è che parla adesso? Chi è che ci annuncia e ti presenta? Cos'era, un bacio quello? No, era un tu con le labbra pronunciate. Perché tocca a me. Ah, tocca a te. Il prossimo pezzo è Tu sei qui, dico bene? Sì. Tu sei qui. È una canzone d'amore, per una volta tanto che facciamo una canzone d'amore. Una delle poche. Una delle poche. Forse veramente. L'unica o ce n'è un'altra, mi pare. Ma di questo disco l'unica. È l'unica di questo disco, sì. Esattamente. E lasciamolo parlare. Ora. Esatto, e quindi è un pezzo che è in si maggiore. Oppure sol diesis minore, a seconda insomma di come la si voglia vedere, non so che altro dire perché l'ha scritto Serena, quindi... però è un pezzo d'amore, insomma i cantautori devono fare le canzoni d'amore, no? Quindi insomma lasciamogliele fare. Speriamo di riuscire a farla, questa mi blocco sempre, non so. Non dire così. Allora la canzone si chiama? Tu sei qui. Thank you. che accende la forza che in me brucia i miei dubbi, cullando il mio canto come a primavera tutto in fiore. Ho di nuovo anch'io colore, giostre di profumi e sensazioni che credevo perse ormai, fuggite via. Ma tu sei qui con me, io vorrei saper fidarmi di te, ma tu sei qui con me. Vorrei saper fidarmi, oh. Ieri soltanto eri parte di chi non so, ora spaventa un po' credere che tutto sia un gioco sincero. Da anima a anima brucia i miei dubbi e libera il canto, giro come fa una ballerina. Tu sei il punto fisso avanti a me, tutto si rincorre, si confondono le forme ormai. La paura vuole prendermi con sé, tu sei qui con me, io vorrei saper fidarmi di te, ma tu sei qui con me. Per fidarmi, come primavera tutto in fiore, ho di nuovo anch'io colore, giostre di profumi e sensazioni che credevo perse ormai, fuggite via. Ma tu sei qui con me, io vorrei saper fidarmi di te, ma tu dolce, che pezzo dolce, una canzone d'amore, giustamente come ha detto Andrea. Ma io voglio sapere appunto dalla voce invece di Serena da come nasce questa canzone. Io poi ti interrompo ancora, io sì. Ho visto insomma che tu scrivi praticamente quasi tutte le canzoni, e sì. Sia testi che musica. Sì. Sì, tutti i testi e tutte le musiche, cioè tutti i pezzi dove c'è il testo, ovviamente i pezzi strumentali. Sì, beh, ovvio, insomma. No, no, dicevo, tutti i pezzi cantati, insomma. Sì, sì, sì. Tu li scrivi, ma come nascono queste? Allora, finora sono nati abbastanza, cioè testo e musica abbastanza insieme. Non mi è mai capitato di avere in testa una melodia completa e metterci le parole. La melodia magari mi è arrivata così come idea, come bozza, e subito anche le parole. Quello che mi capita quasi sempre è che voglio scrivere di una cosa, in particolare di un argomento, e poi mi si stravolge tutto. Ma nasce prima la musica e dopo le parole, allora? Appunto, abbastanza insieme. Non mi viene da dire prima la musica e poi le parole, perché appena c'è l'accenno della melodia, tac, arrivano anche le parole. Qua hai usato un sistema diverso. In che senso? Tu hai detto questo. Il ritornello mi echeggiava da molto tempo nella mia testa. Sì, non il ritornello è un pezzo. No, un pezzettino. No? Quindi non è che non mi accade mai che mi arriva tutta la struttura, la melodia, ritornello e strofa, e poi ci metto le parole. O faccio le parole e poi ci metto la musica. Un po' come Vasco, le mie canzoni nascono sole. E poi lui ha detto, Andrea ha detto anche questo. L'avevi praticamente creata al pianoforte, lui aveva difficoltà, sì, visto che era una questione pianistica, a renderla alla chitarra. È così, Andrea? Sì, diciamo che ho sempre questa difficoltà, in un certo senso. Parto sempre con questa idea. Però questa che... lei ha affermato in modo categorico, sì, sì, nel tuo Facebook. Sì, perché diciamo, il mio punto debole sono proprio i brani così lenti. Lenti, diciamo. Lenti, sì. Essendo un metallaro, giustamente. È chiaro. Va, in piena. Invece... E poi ci fai sentire qualcosa di metallaro. Sì, ok. E quindi questo brano in particolare, non sapevo bene in che chiave interpretarlo. E alla fine abbiamo optato per una cosa, come avrete sentito, molto minimale, cioè veramente io faccio lo stretto indispensabile, e poi nel finale invece metal, e viene tira fuori la grinta, quella, esatto, da blues, una voce proprio rocca forte addirittura, sì, un po' in qualche momento, sì. Oh, ragazzi, devo dire che suonare, cantare in radio è emozionante, diverso, eh? È diverso, sì, poi queste cuffie, sì, non è per giustificarmi, ma dovrei ritornare una seconda volta per fare una figura migliore. Se ci fai un terzo CD è in cantiere, in effetti. Se vuoi, sei tu che lo stai dicendo. Caspita, no, se volete voi, è ovvio che io... Guarda che ti stanno ascoltando, poi una promessa va mantenuta, ricordatelo. Va bene, incrocio le dita, promesso. Lo vieni a presentare qui. Sì. Magari ti chiedo anche l'esclusiva. Magari. In anteprima. Caspita, Più di così? Così vuol dire di più. Bene, questo è, abbiamo già un prossimo live, allora. Già prenotato. Già prenotato. Eh sì, perché per noi è la prima volta in radio. Suonare in radio per me è la Adesso prima che volta. È passato un'ora, Serena, che sensazione hai avuto suonare in radio? Adesso, la sensazione di impeto, adesso è passata un'ora. Ti è passata la paura, l'emozione? No, non ancora. Sono lenta io in queste cose. Sono lenta, sì. Mi capita anche nei concerti, sì, sono molto, una persona molto emotiva, però insomma mi aiuterebbe a suonare di più. Quindi cioè fare cantare continuamente, dici? Fare più concerti, certo. Sì. Ah, infatti il mio intento è quello, fare concerti solo per imparare me, cioè per superare l'emotività. Comunque guarda, ti posso confessare una cosa, che anche per noi speaker, che sono tanti anni che facciamo questa onesta professione e con tanta passione, c'è sempre comunque un po' di tensione prima della trasmissione, e l'adrenalina poi alla fine continua ancora per una mezz'oretta, insomma, quantomeno. No, ma poi tra l'altro noi sappiamo che dopo la trasmissione ci sarà la pizza. Ecco. È un obiettivo che tiene alto l'animo. E se posso dire anche io una cosa, lo trovo molto intimo, non mi aspettavo, cioè a parte che comunque è tutto registrato, dopo si taglia, no? No, non si taglia niente. Qui non si taglia il podcast e né tanto meno le canzoni. Ok, no? Quindi appunto, però è molto intimo, mi figuravo una cosa più, no? Chissà perché, forse perché pensavo alla diretta. Invece è una situazione molto... intima è la parola che mi viene... Scusate, volevo dire. Voleva dire la sua, Mi era venuto questo aggettivo, intimo, volevo dirlo. L'ho detto, sono contento. A noi piace avere questa tipologia di intervista, insomma, una chiacchierata più che un'intervista, insomma, ognuno poi dice la sua, è come se fossimo praticamente a tavola, una birra, un bicchiere di vino, che ne so, un bicchiere d'acqua, e ogni tanto che si canta. Questo è il concetto, lo spirito, insomma, è dare lo spazio proprio a questi artisti che, come dico sempre io, sottobosco musicale è giusto farlo sentire, insomma. Io ti farei riposare un pochino. Va bene, sì. Va sì. Bene. Sì, sì. Facciamo ascoltare questa canzone di questa bambina, di questa Laila. Sì, Laila, sì. Va bene, che potrebbe essere il nome di una bambina. Dovresti, faccio una premessa, posso? Prego. Velocissima. Sì, certo. Immaginatevi una bimba da sola e con a terra disegnato il famoso gioco del campanon. Quindi con, non so se lo conoscete, sicuramente. Magari con un altro nome qui. Può essere, praticamente ci sono dei riquadri fatti col gessetto. Scalone. Sì, sì, sì, sì. Con dentro il numero 1, 2, 3. Scalone. Ecco, è questa bambina che lancia il gessetto e gioca questo gioco aspettando che la vengano a prendere. Laila. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, noi lo chiamiamo Scalone, Scalone forse meglio, voi lo chiamate Campanon. Campanon, sì. Campanon, ma c'è anche la zona di Caorle che lo chiama così, sai. Me lo fa sapere Maura, che ci sta ascoltando da quella zona lì, ah. E in riva al mare dice, sì, anch'io, da noi si chiama appunto Campanon. Ah, in riva al mare? Sì. Sì, Caorle, sì. Caorle, sì, insomma. Ciao Maura, un bacio, buon ascolto e buon proseguo l'ascolto di programmi di Radio Veneto. Quando Agostino mi ha dato questo disco, mi ero fermato in due pezzi, La Lea Insolata, che poi abbiamo messo su come disco lancio per le nostre trasmissioni radiofoniche, e questo pezzo qua, questa title track, come si dice, giusto, dice title track, è un pezzo intimamente popolare, molto popolare. Andrea lo colora in una certa maniera e tu giochi con le percussioni, siccome purtroppo nel libretto non ci sono scritti i musicisti, non ci sono scritti gli strumenti, io voglio capire dove vengono fuori queste percussioni lievi, dondolate, ma un certo senso, da un certo ritmo al pezzo, diciamo da accrocchi. Nel senso che stavamo registrando in studio in Germania da Peterfinger il disco. E non era in programma il fatto di metterci delle percussioni, cioè avrebbe dovuto farlo, secondo i nostri primi piani, Andrea con la chitarra, percutendo sulla cassa della chitarra, sul corpo della chitarra. Invece poi Peter ci ha mostrato insomma le stanze di questo suo cos'era, una specie di teatro, non mi ricordo, insomma c'era una stanza all'interno, la regia dello studio grande, ecco, è giusto, che è vicino al teatro, ma era sì la regia dello studio grande, esatto. Noi invece abbiamo registrato in uno studio piccolo, essendo in duo, e lì abbiamo notato delle percussioni, dei tamburelli, e abbiamo detto vabbè, proviamo a sentire come suonano questi tamburelli, e magari invece di farlo con la chitarra li suoniamo noi, ci divertiamo anche, no? E quindi abbiamo provato a suonare, però un suono era troppo povero, allora abbiamo messo un tamburo sopra l'altro, così va bene, insomma abbiamo sperimentato, alla fine insomma, e il discorso del percussione dà proprio il discorso del popolare al pezzo, secondo me, da, sì, cosa sì. Dici Gigi? Da quell'indice là del popolare, queste lievi percussioni, no? Percussioni così forti, lievi, sì, sì. Perché la voce tua non deve essere coperta, deve stare sopra a tutto. Poi immagino anche che la melodica faccia anche... La melodica, diciamo anche della melodica. Sì, la suono io, sì, dal vivo e anche in quell'occasione in studio. È una melodica popolare, proprio nel vero senso della parola, perché è un po' stonatina. Però si sa che la musica popolare spesso propone i brani così un po' rustici, con questi suoni non perfettamente intonati, però affascinanti. Sì, quindi la title track era ideale. Ben inteso, il disco non è così, non è vicino a queste sonorità, però la title track dà un certo senso al proseguo degli altri pezzi. Ma era quello che volevamo raggiungere, proprio l'obiettivo, cioè di essere, che fosse così popolare, perché infatti così con la storia che si diceva prima, anche che no, che lei è stata in Russia, eccetera. Sì, esattamente, ecco quello è importante. Il recupero di questa sua esperienza. Certe memorie. Esatto, e quindi difatti il brano appunto è... Abbiamo voluto che avesse questa... Lo volevamo quasi, anche forse anche più balcanico, volevamo una cosa veramente... Abbiamo fatto con quello che avevamo, no? Che ci siamo messi a battere sui tamburi, così. Però sì, se ci dici appunto che arriva questa cosa... Sì, a me è arrivata immediatamente. Sì, sì, sì. Ripeto, io ho scelto La Lea Insolata perché La Lea Insolata ha un sacco di riferimenti vocali e mi piace molto per quello. Però arrivava immediatamente, perché già all'inizio, questo è il primo pezzo, quindi il pezzo dà un certo senso, la title track, si ferma anche se non si vuole. E quindi, qui, secondo me, fermandosi vuol dire che il pezzo è riuscito, a mio parere. Grazie. Io spezzo un'altra lancia a favore di questo pezzo, cioè di Lenzuolata. Se qualcuno lo vuol vedere il video su YouTube, guardatelo, perché è di una meraviglia unica questa Serena e quest'altra donna che corre in mezzo a queste Elena Masin, sì, una bravissima ballerina di danza contemporanea che chissà magari sta ascoltando, la saluto, un bacio. Ecco, e che corrono appunto in mezzo a queste lenzuola, insomma, bellissima, veramente una bellissima immagine e un bellissimo video. Grazie. E volevo dire una cosa, visto che siamo in tema di segreti, no? Che prima ha detto una cosa che non si doveva sapere, e allora dico anch'io una che nessuno sa. Aspetta, attento a quello che dici. no, è roba mia, quindi. Ah, allora, vabbè. Su Laila, in realtà nella non so perché, ma mi sono dimenticato di registrare un pezzo, una parte di percussioni, che faccio invece sempre dal vivo, e che avrebbe reso ancora più balcanica più la balcanica, cosa. Più balcanica, più world music. Esatto, perché faccio una cosa in levare col plettro sulle corde mute, quindi solo una proprio uno strumming senza note, e niente, non c'è, e quindi peccato, perché adesso mi dici che arriva il fatto di popolare del coso, se avessi messo quella roba sarebbe arriva immediatamente più. Andrea, perché... non torno a casa con te stasera. Boh, dai, Padova è servita, dovresti trovare un mezzo. Ah, interessante. Ah, hai capito. Vabbè, si combina. Avete una brandina? Sì. No? Sì. Allora ti porti i saluti di chi ti ha preceduto 24 ore fa. Ah. Anna Maria Iorio, che dice: ciao, sono riuscita a collegarmi, vi ascolto e vi saluto. Ah, oh, ciao Anna! Lei è stata qui ieri sera e l'hai sentita, insomma. Sì, certo. Ha emozionato tutti come state facendo voi, insomma. Adesso però vogliamo fare emozionare anche lei, visto che è collegata da poco, insomma. Cosa ci fate sentire? Abbiamo tanto parlato di Circik e della Russia che vi proponiamo questo brano che si intitola proprio Un istante a Circik, ovvero ecco, questo testo e la musica mi sono arrivate mentre facevo le cosiddette, si dice, vasche, non so se anche voi dite, sì, sì, in piazza, c'era il mercato a Cervignano, quindi non in Russia, e facevo ste vasche, c'era il rumore della gente, e le bancarelle. Bruciare, ho avuto un flashback di quando andavo in bazar con mia madre a fare la spesa. Un istante a Circik. Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. Ricominciano a risuonare le polifonie dei gran bazar, fuggono i silenzi tra le vie, percettibile la sensazione di instabilità nel gran bazar, vendono povertà lucida, voci si rincorrono veloci, offuscano il mio istinto nel guardare, pozzanghere di odori contrastanti velano le merci messe in mostra, avanzo camminando lentamente, stringendo fra le mani il vuoto e il niente, il pugno si riapre ancora caldo, mi perdo nel perpetuo risuonare a Circik. persero un istante. Ah, Circi. Hai visto? L'ha fatto anche il gesto finale. Sì, ovviamente. Si vede che fa spettacoli dal vivo. Non sul lato musicali, a Serena. È molto vivace, si muove in continuazione. È quello che dicevo prima. Più vi si ascolta, più... Sì. La cosa sale. Possiamo tornare quando volete. Ascolta, io volevo chiedervi una cosa. Volevo chiedere una cosa a te, Andrea, proprio per il tuo passato, un po' di passato, l'inizio, e lo sei ancora, rock metallaro. Sì. Com'è stato il tuo avvicinamento poi con Serena? Allora, bella domanda. il discorso, innanzitutto è nato da una esigenza logistica proprio, no? Cioè in due si è più vendibili, tra virgolette, che in sei sicuramente. E poi, come diceva lei, si è vista che la cosa funzionava, eccetera. E dal punto di vista musicale è una sfida continua, perché devo sicuramente inventarmi qualcosa per ogni brano, e non è proprio così ovvio. Diciamo che nel primo album, che mi piaccia anche, sì, che ti piaccia, tra l'altro. Nel primo album ho vissuto un po' di rendita, nel senso che ci ho ficcato dentro tutto quello che avevo studiato nei mesi precedenti, negli anni precedenti, e quindi il primo disco, Distratti dal vento, lì c'è proprio quasi ogni brano ha una tecnica, come se esplorassi una tecnica su ogni brano. E nel secondo invece ho dovuto veramente, perché non potevo raschiare il fondo del barile più di tanto, io ho dovuto inventarmi anche delle cose proprio mie, e sono abbastanza contento del risultato. Ovviamente per il terzo, adesso non so, mi sto già mettendo le mani nei capelli. Però Andrea, sai che noi non ti crediamo che vieni dal metal. Ma... cioè, se non ci fai sentire qualcosa, noi non ci possiamo credere. Ecco. Era questo il fine. Ehi, manca la chitarra elettrica. Può fare qualcosa. L'acustica, tanto lo facevo anche prima. Può fare lo stesso. D'accordo. Dai, qualche pezzo che vuoi tu. Qualche pezzo che voglio io. Sì, quello che vuoi. Anche puro rock va bene lo stesso. Sì, allora posso fare. Cioè, inizia, non si ferma più, sai? Allora, prima fa il ritroso, no? Dopo dai, no, non so, poi... è questo. Può andare. Beh, questo era uno, poi? Ah, ok, dopo questo. Poi c'era l'esplosione, tron, andava, esatto, l'esplosione. Appunto. Eccetera. Insomma, già siamo a due, poi? Due, dopo questo. Ho sbagliato. No, Andrea, non sbaglia. Mi scusi. Varia. Da solo è difficile, perché saranno due anni. Certo, certo. E quella che provavi prima mentre... Ah, questa. Ah, è lì che voleva arrivare adesso. Poi col basso. L'ostinato basso, Andrea. Centinaia di migliaia di musicisti hanno cominciato così. Con questo. Sì. Difatti, questa è la prima cosa che mio papà me l'aveva insegnata così. In cui... Te l'ha insegnata così? No, me l'ha insegnata sbagliata, me l'ha insegnata così, posso suonarla, sì, certo. Non per auto, ma così. E fin qua ci siamo. E poi mi diceva, fai così il finale. non so dove l'avesse sentita, ma forse questo gene creativo l'ho preso dal papà. E non hai qualche rimpianto del tuo passato, di questa musica? Ma diciamo che no, rimpianti no, perché ho un altro progetto, certo, in cui suono metal acustico, e quindi meglio di così. È un progetto molto interessante, metal acustico. Sì, è un progetto con un mio amico, e un mio grande amico e mitico chitarrista, Raffaello Indri. Che salutiamo. E salutiamo sicuramente. Ciao, ciao Raffa. Disie. E lui, sì, con lui diciamo che esploriamo, cioè ci divertiamo a suonare le chitarre acustiche come se fossero chitarre elettriche, quindi col plettro stoppato e le cose come cavalcate, proprio come se fossero metal. Com'era la cavalcata? Così. La, diciamo che poi l'esito, il risultato è tutt'altro che metal, però a noi piace chiamarlo metal acustico e ci facciamo delle gran risate. Prima parlavi di concerti, sì. Avete girato anche un po' l'Europa, non solo la Germania. Avete girato in Ungheria, Romania, Repubblica Ceca. Sì, abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto questo tour assieme a Chandra Sabot, che poi è l'ingegnere del suono che ci ha concretamente registrato nello studio di Peter. Poi il mixaggio l'ha fatto Peter, però insomma lui ci ha registrato. È una persona straordinaria, un musicista eccezionale, anche lui chitarrista. E una persona che ci ha lasciato proprio il cuore pieno di musica. Ci ha cambiato la vita proprio. Sì, veramente, una persona alla quale pensiamo spesso. Infatti speriamo tanto di tornare in Ungheria a fare qualche data per poterlo... Persona che abbiamo avuto ospite per un concerto a casa nostra, ah, sì, anche tra l'altro, il suo compleanno dell'anno, sì, scorso. È stato un gran compleanno perché lui ha suonato un concerto, ha fatto un concerto nel nostro salotto e noi avevamo preparato tutto, quei cuscini per terra, ha invitato gli amici che sapevamo che potevano... quelli che sapevamo sensibili a questo tipo di musica, insomma. E è stato bellissimo. Ha fatto una performance eccezionale, è proprio un chitarrista, è un musicista, non è un chitarrista, è un musicista. Tra l'altro lui suona, tornando sul discorso del popolare, suona una meravigliosa rapsodia ungherese, l'ha chiamata, in cui ha messo insieme, adesso non ricordo quante sono, ma più di una ventina di melodie popolari tradizionali ungheresi, e a creare una suite di quasi mezz'ora di musica, con dei raccordi tra una e l'altra composti da lui, ma comunque il filo conduttore sono appunto i brani popolari dell'Ungheria e il recupero della tradizione. Una meraviglia, assolutamente. Tra l'altro, adesso che hai parlato di questa cosa del popolare, del recupero, io avendo abitato in diversi posti, ok, in Russia, d'accordo, quello è il posto più lontano, poi però ho cambiato casa, paese diverse volte, forse per quello non ho mai sentito di avere una radice, un'identità precisa. E conoscendo Chandor ho cominciato ad apprezzare in realtà la mia identità. Quindi io sono nata in Friuli c'è una tradizione, cioè sono a livello musicale, parlo soprattutto, e guarda te, quest'anno ho deciso di partecipare al Festival della Canzone Friulana scrivendo un brano in friulano, e da solo non avrei mai potuto scrivere il testo in friulano, io l'ho scritto prima in italiano e poi mi sono fatta aiutare da Alessandro Serravalle, che saluto e ringrazio, e insomma sarà un'esperienza nuova per noi. Mi sembra di parlare arabo quando canto in friulano. Sentiamo com'è quest'arabo? Non so i buine di Fevelapar Furlan. Non si può. Non si può, è un brano inedito, quindi non inedito. Puoi, sì, puoi cantare. Guai, se mai che mi squalifichino già. No, non puoi farlo. Non puoi. No, esatto. Abbiamo la settimana prossima una cantante che verrà qui, il 23, cioè Elsa, che c'è in mano il disco. Elsa, sì, sono in mano io, sì. Ecco. Sì. Elsa Martin. Elsa Martin, che verrà, che lei canta appunto in dialetto. Lei canta prevalentemente in friulano, sì, friulano, è vero. L'ho conosciuta proprio in occasione di questo festival, in quanto anche lei è stata scelta fra 18 finalisti e insomma l'ho conosciuta lì. A dire la verità, ultimamente sto conoscendo un sacco di musicisti e di cantautrici in gamba. Friulane. Sì, friulane. Sì, sì. Qua è venuto molti anni fa, qualche anno fa, forse l'esponente più importante della musica friulana dal chiave rock è Luigi Maieron. Mm. Luigi Mairone ha sdoganato la musica friulana in Italia grazie a dei dischi molto interessanti tra italiano e friulano. È venuto qua a suonare, è un poeta, assolutamente un poeta, un poeta straordinario, Luigi Mairone. E comunque giovedì ripercorreremo questa regione, insomma, con il suo dialetto. 2006-2012, sono 6 anni e vedo che avete fatto tantissime cose. È un dispendio energetico notevole. Sì. sì. Sì, però... Mai abbastanza. Sì, mai abbastanza. Ci fossero giornate con più ore... è che purtroppo si deve fare anche altro, non si può soltanto fare concerti e scrivere musica, bisogna lavorare. Io sono fortunata, faccio teatro, come dicevo prima, ed è quello che mi dà da vivere, ma con tanti compromessi, quindi sì, insomma, non ho uno stipendio molto elevato, anzi, e poi quando è successo, insomma, ho fatto anche altri lavori, cameriera, banconiera, ha dato ripetizioni, si fa lezioni di canto, eccetera. Ma la musica non si perde mai, mai, si deve sempre andare avanti. E lo dico a voi, ma per dirlo a me. Certo, comunque l'entusiasmo si nota. Grazie. Se si nota va bene. Vuoi riposarti ancora o vuoi suonare dal vivo? Cantare dal vivo meglio. Cosa c'è? Io non mi ricordo neanche che cosa c'è adesso. In scaletta cosa c'è adesso, Agostino? Adesso c'è la traccia numero 2 del disco. E allora sì, che vada. Sentiamo. La vuoi presentare, dire quelle due parole? Qual era? Che disastro. Allora sì, quella di prima era Laila e questa è di Tede non so. E sono entrambe le canzoni che abbiamo portato appunto al festival, sì, al concorso a Osnabrück. Quindi le due canzoni che ci hanno fatto vincere. L'ascoltiamo. Io dico, segui la corrente e poi vai, vai. Se l'intento è andare incontro al meglio di te, non restare spento mai, mai. Non la senti, seguiti a parlare ancora di te, dei no, non so, ancora di te, dei no, non so. Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Radio Veneto. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Serena, sei allora ancora un po' più serena adesso? Ma sì, sì dai, sì, un po' di più, un po' mi ci vorrebbero altre due ore. Dai che tra poco ti aspetta la pizza, insomma. Quindi. Sì, sì, sì. Allora, questa canzone. Ci parli un po' di questa canzone. Sì, di te, nasce? Dei no, non so. Questa canzone è una delle canzoni che è nata da un giro armonico di Andrea. Suonava questo giro continuamente e a un certo punto ho detto: senti, me lo registri e me lo dai, che magari nasce un pezzo, mi ispira. E così è stato. L'ha registrato. E in questo caso, insomma, la tua approvazione è stata totale. No, intendevo dire il mio iter. Sì, è cambiato. È cambiato. Sì, volta Andrea è stato lui prima che ha avuto l'idea. Era già successo nell'altro disco, con Silenzioso Gesto d'Amore. Secondo me, posso dire una cosa? Sì. Questo pezzo di Andrea, che è molto variegato rispetto al brano, la title track, al brano iniziale, è molto influenzato dal disco precedente, secondo me. Molto legato al disco precedente come sonorità. Non può essere, sì. Sì, anche perché come... Diciamo, non hai raschiato il barile quasi. No, ma era un giro che avevo da tanti anni che mi girava. Un giro che girava. Che avevi in mente di eseguire. Sì, che un giro che non sapevo dove mettere, sostanzialmente. Perché... capita ai musicisti, se c'è, insomma, tu tiri fuori qualcosa, dici: ah, questo, che forte. Dopo però non riesci, a me capita, a nessun altro. A me capita spesso, trovo un giro, una cosa, e dopo rimane lì che non so cosa farne. L'italiano sta peggiorando quando e come mai secondo voi è piaciuto molto in Germania questo pezzo? Che motivo c'è? Cioè, motivo sì, perché tu è stato sbagliato, tu dicevi che la seconda di no, due abbiamo, pezzi sì, ma il fatto è che siamo talmente i migliori che non potevano piacere. Naturalmente, certo. Andrea scherza sempre, a volte non riesco nemmeno non io è stato capire. Sbagliato nulla, è stata una variazione, c'è stata, sì, rispetto, esatto, all'originale, esatto. Diciamo che sì, in entrambi i brani alla fine ci sono delle sovrapposizioni di voci e di parti di chitarra, e nel primo brano ho messo delle parti io, nel secondo brano le ho messe lui, però per me erano errori, perché ero infuriata per questa cosa. Ma questo è molto più movimentato rispetto al precedente, forse è piaciuto anche per quello, il movimento. Se posso essere sincera, a Peter è piaciuto più Laila. Vedi. Se posso essere ma sincera. Ma Peter ha deciso, è lui che ha deciso poi chi doveva vincere, o una giuria. No, c'è una giuria, certo sì, però vabbè, era per dire che non si sa se è piaciuto più questo o più l'altro, insomma, che l'unica cosa che so che a Peter è piaciuto più Laila, infatti quando si era trattato poi di risuonarlo ci ha detto: suonate quello, suonate Laila. In ogni caso sì, è un brano che ha detto il suo e a noi piace molto, e anzi c'è chi lo preferisce a Laila, insomma è questione di gusti, ecco. Dopo, quando l'abbiamo risuonato, lui ci è venuto bene. Abbiamo fatto giusto. Avete fatto giusto. E non gli piaceva più. No, non è vero, non è vero. Volevo fare una piccola parentesi, Andrea. Parlare di Arduo, è giusto, lo dico bene. Arduo, sì, certo. È una cosa che va in parallela. Sono due esperienze diverse. Sì, sono diverse. Due cose diverse, sì, esatto. E in cosa consiste questa esperienza in parallela al Deja? Ma abbiamo... come dicevo prima, il gusto di suonare la chitarra acustica come fosse elettrica. E lì diciamo che Raffa e Raffaello Indri, che è il ragazzo con cui suono, bravissimo chitarrista, eccezionale, non si spendono abbastanza aggettivi, è un ragazzo, cioè un musicista molto impegnato, e quindi lui ha i suoi progetti da portare avanti, eccetera. Io ho i Deja con cui cerchiamo di spingere e arrivare, quindi diciamo che è una specie di parentesi così metal che ci concediamo tra virgolette, che ci sta, comunque ci sta dando soddisfazioni, ci ha dato delle soddisfazioni. Abbiamo fatto un CD che si intitola Ovest Ardita Est ed è stato edito, prodotto da Folkest Dischi, Folkest è, credo che conosciate il festival, sì, che si svolge ogni anno in Friuli. Spilbergo, no? Esatto. Quest'anno c'è anche Chiana, che è venuta qui a Blues Radio Veneto. Ah, ok. E quindi, esatto, il primo disco è stato così prodotto da Folkest e l'abbiamo presentato in diverse serate nel festival. E anche il secondo uscirà sotto la stessa per la stessa etichetta. Quindi sì, diciamo un progetto che pur con i suoi tempi, perché anche lì il primo disco è del 2006, adesso il secondo forse esce quest'anno, cioè speriamo che esca quest'anno, ma i tempi sono sempre dilatati, e quindi pur con le sue tempistiche così bibliche ci sta dando soddisfazioni. E comunque è una cosa bella, perché anche lì siamo liberi e possiamo fare quello che vogliamo, e quindi non c'è mai un limite, diciamo, dobbiamo suonare in questa maniera, se no non è, cioè lì veramente c'è libertà. Serena, e tra poco quindi presenterete questo nuovo lavoro. Beh, sarà per quando? Ah, bene, io spero entro il 2013, ma non lo so, per il momento soltanto 3 brani e tra l'altro non ancora soltanto uno passato alle mani di Andrea, gli altri due sono ancora tra le mie mani, e quindi tra me e i tasti del pianoforte. Quindi ce n'è di lavoro da fare. Speriamo di avere il tempo, le energie e tutto il resto, tutto quello che serve per, ma credo di sì. Avrà qualche diversità rispetto agli altri precedenti lavori? Ma a me piacerebbe tanto, a livello di contenuti, che emergesse il mio amore per gli animali e la natura. E quindi spero a livello di contenuti di riuscire a come dire, a trattare questi argomenti in maniera sensibile. Uso spesso questa parola. Però non lo so, come dicevo prima, a volte inizio un brano pensando di trattare un argomento e poi le parole vanno, non dico che vanno da sole, perché non è che, ma vanno quasi da sole, e si costruisce un testo magari che parla di tutt'altro. Quindi un lavoro ancora... Sì, è ancora lungo. Sì, embrionale, sì, esatto. Però insomma, si sta... Ho imparato oggi questa parola, embrionale. Sì, si sta facendo e... Sì, e vedo che si illuminano gli occhi quando guarda avanti questo progetto. Infatti, beh, insomma, tanto lo sai dopo dove devi andare in quel progetto. Ma mi pare, sì, la parola, cioè, c'è un blu dentro. Sì. Vabbè, ti facciamo cantare ancora adesso. Ma sì, via, siamo venuti qui per quello. Oh, quindi, insomma, esatto. Io in realtà abito vicino al mare, a 15 minuti dal mare, quindi il mare di Grado. E il pezzo che vi canto si intitola Conchiglia, ed è un brano contenuto nel primo disco fatto con Andrea, Distratti dal vento, per cui a voi Conchiglia. E vi garantisco di non perdervi assolutamente questa canzone, perché è di una bellezza unica. Sono una conchiglia intera. mai raccolta. Chiara piccolina, sto lontano dalla riva. Nel mio nascondiglio, con forza mi nascondo. Esco se ne ho voglia, quando il sole mi richiama. Come ogni conchiglia, io proteggo la mia essenza. Mi lascio portare dove il mare può andare e viaggio con ciò che resta di questa mia essenza e soffro ad ogni deserto di sabbia che incontro. Ascolto le maree, il loro naufragare. Non ho ancora che fermi, né timone che decida. La forza delle onde mi invita a mareggiare. Vorrei vedere il mondo, vorrei vedere il sole, toccare un po' quel cielo riflesso sul mio mare. Come ogni conchiglia, sono un occhio di mare. Non ho fissa dimora, io mi sposto insicura e viaggio con ciò che resta di questa mia essenza e soffro ad ogni deserto di sabbia che incontro e viaggio con ciò che resta di questa mia essenza e soffro ad ogni deserto di sabbia che incontro. Abbiamo avuto anche il mare in studio. Ma hai sentito, Gilles? Abbiamo avuto anche il mare. Esattamente. Sì, sì, stavamo parlando anche prima con Maurizio. Un po' sulle... di bossa nova, un mare con la bossa nova. Cioè, sì, sì. La mare cioè, chiama la bossa nova. È chiaro, sì. Chiaro, giustamente. Brasile, ecco. Quindi. Brasile, più sì. Mare di così. Esatto. Io ero un po' incuriosito, ma perché magari chi sta al di là, magari sicuramente chi sta al di là delle. Del microfono, chi sta ascoltando la radio magari non se ne rende conto, però volevo che spiegassi un attimino questo gioco con gli strumenti, perché praticamente cioè, sono dei suoni ripetuti, magari sembra che qualcuno ti faccia da sottofondo, invece come funziona? Ormai è una macchina che usano in tantissimi, è una loop station, praticamente è un aggeggio. Tu premi con tutto tecnico, premi molto con... tecnico, è un aggeggio. Tu pigi col piede, oppure adesso ne hanno fatte delle versioni molto più avanzate dove usi la mano, quindi è anche più silenzioso, in quanto quello che ho io, non dovrei dirlo, ma insomma si sente click sotto, no? Perché proprio il pedale fa il suo rumore quando viene pigiato. In pratica con questa macchinetta io canto, durante il brano canto delle parti, le memorizzo, le registro, poi ho la possibilità di stoppare la registrazione e di azionarla al momento opportuno. E una volta azionata sopra questa registrazione precedentemente fatta io posso cantare delle altre parti, quindi diciamo nascono delle polifonie di suoni, come in questo caso ho usato degli strumenti, l'albero della pioggia, e poi lo chiamo i marones, ma non so come si chiama. Sono dei semi hanno un suono questo un po' particolare, uno strumento africano, l'ho preso in un negozio ecosolidale e lo sto usando molto, quindi mi piace. E quindi posso sovraincidere dei suoni di strumenti oppure semplicemente la voce, come ho fatto nel pezzo precedente, credo, alle favole. Bellissima. Allora, sono le quasi le 23. Quasi. Però, sentire insomma... un momento il suono un'altra volta. Dai. Devo far sentire sì, il suono? Sì, sì, sì. Bene. Anche il rumore della pioggia, che è molto significativo. Sì, eccolo qua, è tutto dal vivo, eh. Tutto dal vivo. È sempre la scaletta, quando ci sono io non c'è mai una scaletta prefissata. Bello, molto bello secondo me. Volevo chiedervi ancora due cosine, la mia curiosità. Leggendovi così un attimino, ho visto che avete fatto un concerto anche ad Aquileia con un ospite e una ballerina. Sì, Giulia Meninel è una ballerina. Allora, in realtà noi abbiamo due amiche ballerine molto brave, entrambe danzano, fanno danza contemporanea, e mentre nel video Lenzuolata danza Elena Masin, e dal vivo ad Aquileia ha danzato Giulia Meninel, che poi è la prima ballerina con la quale abbiamo collaborato. Anzi, a dir la verità, le primissime ballerine appartengono ad un gruppo che si chiama Danza Evento, e che saluto, non credo stiano ascoltando, ma io le saluto lo stesso. Soprannominate Sventole. Sì. Le Sventole. Tanto poi possono riascoltare il podcast, quindi... Perfetto. Adesso saranno obbligate a sentire. Sì, con loro anni fa, alla presentazione del disco Distratti dal Vento, che abbiamo presentato al Miela a Trieste, abbiamo realizzato proprio uno spettacolo fondendo la musica con la danza. E che sono due materie, chiamiamole materie, che io adoro insieme al teatro. E nel disco invece, questo Laila, abbiamo fatto entrambe, cioè tutte e tre le cose, dal vivo se possiamo, cioè se lo spazio lo permette, e anche diciamo aspetti budget economici budget se lo consentono. E ci presentiamo io, Andrea, la ballerina, una o due a seconda, e un attore, Enrico Cavallero, un bravissimo attore che unisce, diciamo, fa da trait d'union fra i vari brani, recitando parti dei miei testi. Quindi c'è anche molta creatività nei vostri lavori. Beh, in realtà io penso che ormai sia stato fatto quasi tutto, e soltanto la differenza sta in come lo fai. Io ho visto centinaia di artisti che si avvalgono della collaborazione di attori o ballerine, sia nei video che nei live, ma ciò che colpisce, che rimane, è come vengono fatte queste cose, questi abbinamenti. Io spero di farlo nel modo più bello possibile, ovviamente. abbiamo fatto, cioè in realtà noi abbiamo fatto diverse cose con Giulia, non è solo... Sì. No? È venuta tante volte a ballare i nostri brani, e a dirla tutta nel video ci sarebbe dovuta essere lei. Lei, sì sì, nel video di Lenzuolata, sì. Però stava male. Beh, ragazzi, dobbiamo dirvela questa, ecco. Allora, su serio, per la realizzazione di questo video ci sono capitate diverse cose. Allora, adesso ho capito cosa vuol dire. Il giorno prima della partenza, la mattina, mi chiama Giulia al telefono: Serena, mi dispiace, ora non posso, non ce la faccio. Insomma, stava male, aveva un'influenza intestinale, cioè vi lascio solo immaginare. L'idea di ballare penso sia stata l'ultima cosa che... Non posso farcela, quella crisi totale, perché questo video l'abbiamo realizzato in Toscana, grazie a Riccardo Lucchi, che saluto, accidenti quanti amici da salutare, e un'altra persona splendida che crede molto in noi, nel nostro progetto. Bom, comunque non divaghiamo troppo, insomma, avrebbe dovuto ballare lei, ma si è sentita male, e io mi sono trovata a poche ore dalla partenza senza la ballerina, che era una delle cose fondamentali del video. Già tutto pronto, già tutto organizzato. Già tutto organizzato, giorni, il regista, Simone Vreck, che salutiamo, e la bambina, che anche lei è un personaggio del video fondamentale, i genitori quindi si erano organizzati con i lavori, eccetera. Niente, crisi, comincio a telefonare dappertutto: chi conosce una ballerina che faccia danza contemporanea, che voglia fare questa cosa, cerca qua, cerca là. Proprio Giulia ci ha fatto il nominativo di Elena Meninel, Elena Masin. Insomma, la contatto, sperando che prima di tutto che fosse libera, perché dall'oggi a domani non è che uno si pensa di fare un video, no? Era libera, ha accettato, E quindi c'è stato questo incontro, e anche lei è una ballerina straordinaria, un'amica, è diventata un'amica, e quindi quando può Giulia viene Giulia, quando non può Giulia viene Elena, quando possono tutte e due vengono tutte e due, quando non possono facciamo a meno. Ecco. Ah, però la cosa che volevo dire è un'altra. Chi ha già visto il video, come Agostino, sa che c'è un elemento fondamentale, un oggetto, le lenzuola. Bene, noi partiamo da casa. No, noi aspetta, scusa, qui interrompo un attimo. Ah. Noi nei mesi precedenti, siccome ce ne servivano parecchie di lenzuola, nei mesi precedenti abbiamo chiesto agli amici, chi ha lenzuola bianche da darci, per favore, se senza vuole comparire scritto nel video dei Deja, no, una volta nella vita, tutto come un evento così. E siamo riusciti a tirare su 30 e passa lenzuola, 33 sì. Quindi abbastanza, insomma, no? Messe tutte in delle valigie, in dei sacchi, eccetera. Con il nome di riconoscimento per tutti, partiamo, arriviamo all'altezza di Rovigo. Io candidamente mi rivolgo verso Andrea e dico: Andrea, ma dove hai messo le lenzuola? Sbiancato. Le lenzuola erano rimaste a casa. Siamo dovuti ritornare indietro a prendere le lenzuola. Da Rovigo. Da Rovigo. Da Rovigo fino a Fiumicello e poi di nuovo. Due ore di strada. Sì, aggiunte poi alle ore che servivano per arrivare in Toscana. Perfetto. Perfetto. Cioè, una cosa devo ricordarmi, le lenzuola lasciate a casa. Perfetto. Ma a che ora dovevate farlo questo video? No, fortunatamente stavamo su tre giorni, tutto il weekend, quindi solo che dovevamo arrivare verso le 6 e cenare tutti insieme, noi siamo arrivati alle 11 passate. Beh, insomma, sì. Vabbè, comunque poi il video vale la pena, insomma, ne è valsa la pena. Sì, è stata una bellissima esperienza, poi siamo soddisfatti. E quella bambina? La bimba mi assomiglia molto, non è mia figlia, no. È la figlia di mio cugino, sempre una Finatti, come diciamo noi. Finatti è il mio cognome, quindi sì, ha i tratti proprio delle... I tratti di Finatti. I tratti dei Finatti. E visto che parla di Finatti, Vittorino che parla all'inizio? Vittorino è mio padre. Ah, ecco. Sì, che ha una particina prima all'inizio della presentazione. Sì, l'ho detto qui che si chiama Vittorino, non sapevo che fosse... Sì, sì, mio papà, sì. Hai fatto partecipe tutta la famiglia. Ho cercato, sì, cerco di far partecipi sempre tutte le persone a cui voglio bene. Eh beh, hai fai bene. Vabbè, ancora uno spazio, ci ascoltiamo qualcosa dal disco precedente. Abbiamo scelto Non c'è ragione, ti va bene? Sì, certo. O vuoi ascoltare quella indiana? No, non c'è ragione, non c'è ragione, va bene. Sì. Ascoltiamo sì. Quella. A controllare, ecco in fondo uno dei motivi per questo molti non sono più vivi. Imparare da quello che è già passato, tanto tutto torna, guarda il nostro stato, chiarire se credo a quello che dico o è facile di aver già capito. Non c'è ragione al mondo che mi convinca che distruggere è l'unica scelta, l'unica. vento, quando trova spazio cresce in un momento. Promesse che diffondono un comodo senso, occultando un fine del tutto diverso. Non c'è ragione al mondo che mi convinca che distruggere è l'unica scelta, l'unica, l'unica. Non c'è ragione al mondo che mi convinca che distruggere è l'unica scelta, l'unica, l'unica. Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, io sto pensando sempre, sempre molto affascinato, sempre più affascinato dai Deja, a un'uscita in barca e notturna al Golfo di Trieste, in acustica. Stavo provando. Io la tengo in sottofondo questa perché mi piace tanto. E allora, pensando a questo, provo a immaginare che esperienza è stata. Beh, questa ultima che abbiamo fatto è stata veramente notevole, perché innanzitutto la cornice così sull'acqua, perché praticamente si prende la barca, si esce sul Golfo di Trieste, si parte dall'isola della Cona, che è una riserva naturale ed è alla foce dell'Isonzo, quindi si prende un canale e si arriva fuori in mare, e poi la barca viene spenta, non si spegne il motore e si butta l'ancora e si rimane nel silenzio, con illuminati solo dalla luce della luna e di qualche candela eccetera, che tra l'altro quella sera c'era luna piena, quindi sì, era perfetto, e si suona, quindi già la cosa è, si suona in acustico, quindi senza pedali, senza microfoni, solo chitarra e voce, proprio perché sì, non essendoci modo di avere corrente elettrica non si può. E una cosa molto toccante che è successa questa ultima volta è stata che una famiglia di cigni si è avvicinata e ha ascoltato tutto il concerto, e c'erano, all'inizio sembravano solo due, poi si sono allargati un po' e in mezzo c'era il piccolo, il cignetto, non so com'è. È veramente una cosa notevole. Sono rimasti quasi tutto il concerto, sì. E ci hanno detto che è raro, cioè strano, perché in genere se hanno il cucciolo non si espongono così, ed erano proprio sotto la barca. Hanno comprato il CD anche. Beh, questa è un'esperienza che si ripete, cioè è una cosa, stata una cosa unica o è una cosa che va ripetuta? Abbiamo già fatto collaboriamo spesso con l'isola della Cona. Visto che ci siamo, salutiamo anche David. Sì, anche David, esatto. David è un ragazzo molto in gamba che, oltre a essere molto sensibile per il discorso, anche lui ha un gruppo musicale molto valido, eccetera. E gli piacciamo e quindi ci ha aiutato in diverse occasioni, ci ha ospitati per dei concerti, sia così in barca, sia anche proprio... Abbiamo una delle date a cui abbiamo presentato il nostro CD, Laila, una delle più... di quelle che ricordo con più piacere, sicuramente quella all'isola della Cona, perché è un si suona proprio in mezzo alla natura. Non c'è... Dov'è questa isola? Non tra Monfalcone e Staranzano, diciamo, e Grado, così è Grado, la foce dell'Isonzo praticamente. Una riserva naturale che ha vinto anche il primo premio come riserva naturale. Adesso io non so esattamente questo primo premio cosa voglia dire, però ce l'hanno detto e... E ci faceva piacere, sì, dirlo. Molto. Si suona in mezzo alla natura, non c'è palco, non c'è così. E, sì, c'è un impianto, logicamente, qualche luce, tante zanzare, però è veramente... è bella. È una cosa... Location, sì, esatto. È intimo anche quella, è una cosa che... Sì, che non lascia indifferenti, almeno secondo me. Ci sarà la possibilità di partecipare, allora, una telefonata, un SMS, arriviamo. Penso, ah sì, d'accordo. Penso che sia un'esperienza, dicevo prima, stavo abbinando la vostra voce, la tua voce, lo strumento proprio a questa esperienza, deve essere una... una cosa da vivere. Eh sì, assolutamente. Avevamo un pubblico costretto, nel senso che con questi sopra sta barca, sti poveretti, anche se non gradivano la musica, non potevano andarsene. Erano costretti. Ma... lì erano, lì dovevano rimanere, però sembra abbiano gradito molto. Certo. Beh, insomma, cambiando completamente il discorso, quando i Deja hanno un po' di relax, sì, e magari vorrebbero andare in un'isola deserta, cosa si porterebbero via come dischi? Tre dischi vi concedo, a testa. Tre dischi? Allora, parlerà prima Andrea, che lui è molto più bravo di me a scandagliare i titoli. Cosa ti porteresti, Andrea? Allora, il primo, visto che abbiamo parlato prima, è Yes Album degli Yes, sicuramente. Mitico. Dovevi assolutamente... Io avrei scelto Fragile, però tu hai Fragile? Scelto Yes Album. Vabbè. Ma quel periodo lì, 71-72, solo l'imbarazzo della scelta. Sì, esattamente. Il primo con Steve O, Yes Album è comunque... ha dei pezzi che mi colpiscono, mi hanno sempre colpito profondamente. Poi... cavolo, è una domanda difficile perché Intuit di Pierre Bensoussan, che è il mio tu guru, idolo, sì, esatto, il mio chitarrista preferito. E poi il terzo disco, oddio, adesso puoi spaziare in qualsiasi rama. Sì, certo, però che domande devo pensare ovviamente qualcosa che non mi stufo mai di ascoltare, no? Che ho sempre Non Joe Satriani. Non, esatto. Hai sentito tante volte Joe Satriani, un po' di tempo fa. Sicuramente. Cavoli. E beh, ce l'ho sulla punta della lingua perché recentemente ho fatto una specie crisi, di compilation ho fatto una compilation per un amico che mi ha chiesto dammi dei titoli così e magari mettimeli sulla chiavetta perché io ho una collezione di CD abbastanza importante. Allora lui mi ha detto se mi fai, mi sembra di conoscere qualcuno, delle copie io ti di cose che secondo te meritano. E allora ricordo che ho passato tutti i CD, e tra questi artisti che ho scelto sicuramente c'era uno che ho detto beh, questo è veramente uno dei miei dischi preferiti, però non mi viene in testa, quindi facciamo due per adesso, dai. Poi mentre parla Serena mi viene in testa, esatto. Dopo lo dico, sennò... Allora io direi che mi porterei via, anche se mi pentirei, nel senso che tre sono troppo pochi. Dobbiamo limitare. Sono pochissime, poi dipende dal momento. Certo. Comunque, io adoro Ivan Segreto. Ah, Ivan Segreto adori? Adoro. Dunque, sono 7 anni che facciamo Rock Wave e Blu Radio Sera. È la prima volta in assoluto che qualcuno cita Ivan Segreto. Secondo me è un artista non spettacolare. Non è conosciutissimo, ma è molto interessante. Sì, io ho anche avuto la possibilità di vederlo dal vivo a Gradisca di Sonzo, suonare lui solo col pianoforte. Ma secondo me lui è proprio magico, mi piace. Uno dei miei sogni è poter duettare con lui, anche soltanto fare sotto una sua canzone, lo adoro. Eccolo, il banchetto dell'amore, questo. Brava, complimenti. Sì. Quindi uno dei suoi dischi, uno dei suoi dischi indifferentemente, quale. Poi il secondo disco... sembrerà strano, ma mi porterei via un disco vecchio di Vasco, uno dei primi. E c'è da dire che io non lo amavo Vasco da ragazzina, perché lo trovavo volgare, grezzo. E invece, secondo me, è un tipo, ha un guscio e dentro c'è del morbido e c'è poesia semplice, diretta, molto diverso da me. Io non sono semplice e diretta, probabilmente, questo mi dicono. Però mi piace, lo adoro. Il terzo disco, sono molto combattuta. Sally. Anche nella versione di Fiorella Mannoia è ancora più bello, secondo me. No, io da Vasco, lo preferisco da Vasco, sì. Però Sally è molto, molto femminile, secondo me, quindi cantato da Mannoia. Sì, certo, poi la Mannoia è un'interprete bravissima. Il terzo disco sono veramente molto combattuta, non saprei, forse Battisti. Quale? Wow. Ma non saprei, io sono negata per ricordarmi. Ma all'inizio iniziale di mezzo anche. Di mezzo, sì. Questi tre, direi. Quello perduto, Andrea? Ce l'ho il terzo, ce l'ho. Quello perduto? È Friday Night Live in San Francisco di Paco De Lucia, Aldi Meola e John McLaughlin. Qua andiamo alti, andiamo molto alti. Lì, devo dire che è da lì che è iniziato la mia passione per l'acustica, sentendo le quartine furiose di Aldi Meola, che si avvicina, difatti è citato come ispiratore da molti chitarristi rock e metal, perché lui ha proprio questa precisione e questa proprio velocità di esecuzione che poi è stata, secondo me, ripresa da proprio da... Io devo dirti questo, Andrea, io non sono proprio vicino a queste sonorità, però questi tre mostri sacri li ho visti in concerto un po' di tanti anni fa, e anche se non ero in queste sonorità, non ero proprio dentro nel DNA di questa musica, mi hanno elettrizzato, una cosa incredibile. Sono tre mostri sacri, una cosa incredibile. Gil era il Palasport, eravamo tutti là tesi a vedere queste evoluzioni incredibili, questi tre personaggi fuori del tempo, che chitarristi di grandissimo valore, ma anche come personaggi, come pathos che davano alla gente che li sentiva, incredibile. E devo rispondere a te, perché abbiamo fatto questa domanda dell'isola deserta che diceva Agostino. Sono dunque... Abbiamo vinto un premio, andiamo ancora. No, hai vinto nessun premio. Sono 10 anni che facciamo questa domanda, perché... È per scoprire i vostri gusti. Esattamente. Una volta, molti anni fa, io leggo il Nucleo Selvaggio dal numero 1, quindi il Nucleo Selvaggio è una rivista storica della musica rock, e nel 77-78 Max Stefani, che era il direttore, fece un referendum. Chi vorreste nell'isola deserta? E ora mi sono ricordato di quel bellissimo invito e abbiamo ripreso io e Alberto questa idea, ed è sempre stata un'idea positiva, perché riesce ad allargare gli orizzonti di chi viene qua a far sentire la propria musica. Per sentire i gusti degli artisti è molto significativo poi capire da dove parte la loro musica. Noi la vediamo così e continueremo sempre a proporre i dischi su un'isola deserta. Io scommetto che se vi chiedesse un quarto CD portereste i Deja. Sì, per non dimenticare i miei pezzi. Però live, certo. Però live. Però live. Sì, magari con le lenzuola. Sì. A voi che suoni certo. Certo, ah, certo. Certo, assolutamente. E va bene. Ho dovuto pensare. E l'insolata, la pizza sì. Che manca. Ah, io ci stavo arrivando. Allora, ci ascoltiamo questo pezzo straordinario che dicevano un po' canzi i Deja, cioè l'insolata. Vi ricordo che potete tranquillamente vedere il video su YouTube, e vi consiglio anche questo di guardarlo, perché è veramente molto, ma molto bello. Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Non scendo, non scendo, non scendo, no. Non scendo, non scendo, non scendo, no. Non scendo, non scendo, non scendo, no. Non scendo, non scendo, non scendo, no. Danzano a sole linde, sembrano tenere un passo pregno di passione. Non scendo, non scendo, non scendo. Volta e risvolta, dritto, rovescio, stop. Vola, vola via il calzino, vola, vola via la gonna. Questo vento presuntuoso vuole comandare. Scivola, libera, ma ben salda. Stare salda al filo teso, oh. foglie sembrano provare invidia. Non scendo, ormai sono asciutte dritto rovescio, ma l'ombra chiama già la sera lei, l'ombra umida e indolente, forse intende soffocare tutto quel danzare. Scivola, libera, ma ben salda. Maurizio, che ne pensi? Quanto bello è sto pezzo, a me è piaciuto un sacco, l'ho sentito un sacco di volte, perché mi entra dentro queste voci che si rincorrono continuamente, e c'è proprio una musica popolare, ma una musica popolare raffinata, piccoli tocchi, leggeri, leggeri, poi sviluppa, Andrea dà uno sviluppo quasi folk al pezzo, e poi ritorna questa voce che continuamente ritorna, bellissimo pezzo secondo me, il pezzo, per me è il pezzo che mi ha colpito immediatamente, l'ho sentito un sacco di volte, l'abbiamo sentito assieme, da un certo senso è un pezzo magico a mio parere, io l'ho sentito così, c'è poco da fare, hai ragione, cioè, c'è poco da fare quando uno sente una cosa, ci sta dentro e lo sente, importante che il pezzo entri nelle persone, è stato è entrato assolutamente, non so cosa dici Gigi. Io rimango sempre più incantato da questa cosa. Senti Serena, io volevo chiederti una cosa: se tu dovessi spiegare a qualcuno la tua musica, cosa gli diresti? Che è nuda che è sincera. E a riguardo il genere dici? Sì, riguardo al genere, sì. Beh, direi musica italiana contaminata da tutto quello che si può sentire. Musica italiana comunque, perché io ho delle colleghe che scrivono in inglese, che cantano in inglese, perché l'inglese è la lingua, diciamo, che tutti, tra virgolette, capiscono. E io scrivo in italiano perché io sogno in italiano, penso in italiano, anche se non escludo di poter fare dei brani in inglese, in friulano, in francese, perché no? Perché, come dicevo prima, amo le contaminazioni sotto tutti gli aspetti. Solo, ecco, musica italiana contaminata. Potrebbe andare bene? Che ne dite? Potrebbe anche andare bene. Ecco, io quello che collego, sempre ascoltando la vostra musica, io la collego molto a questa vostra copertina. Questo, per me questa è una cosa veramente eccezionale, perché la vostra musica dà l'idea di una favola. Ascoltandovi dà sempre l'idea di una favola, da ascoltare a occhi chiusi. Anche per quello prima vi ho chiesto appunto di questa esperienza in barca. Beh, che belle cose che ci stai dicendo. Sì, veramente, puoi venire quando vuoi a casa nostra. Grazie. A dirci queste cose. No, però in realtà la copertina, cioè, in effetti ci sono due elementi che nella mia vita sono sempre stati presenti, ovvero le foglie e l'acqua. Io quando ero bambina facevo collezione di foglie secche cadute a terra e tappezzavo i muri della mia camera di queste foglie. Mia madre non ne poteva più, però per me era proprio essenziale. Dovevo raccoglierle e disporle cromaticamente e poi l'elemento acqua, che per me significa forza, trasparenza e sì. Penso che probabilmente è proprio questo, cioè riuscire a portare il colore nella musica. Bene. Allora, io direi a questo punto, siccome siamo quasi in chiusura, visto come è volato il tempo, tu avevi tanta paura, ti sei sciolta, adesso sei dirompente, di fare ascoltare ancora un pezzo dal disco precedente, cioè Distratti dal vento, questa canzone che tu parlavi poc'anzi, insomma, che ricalca un po', insomma, le sonorità indiane, sì, giusto? Sì, sì. E poi torniamo lo studio della voce, esatto. Dello strumento della voce, strumento indiano stavolta. Esatto. Anche nel lenzuola c'è lo studio dello strumento della voce, secondo me. Beh, sì, certo. Beh, insomma, la voce è uno strumento, quindi va studiata comunque, indipendentemente dal genere. Però sì, sì, Neumi appartiene proprio al periodo di studio che ho fatto con questa cantante indiana a Venezia, sì. E poi ritorniamo in studio e ci salutate con l'ultima canzone. Però mi viene da piangere. Però prima ci ascoltiamo appunto questa canzone che si intitola Neumi. Emergano Ora Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Cosa? Hai capito? C'è la mischia, Caspita. Non infatti, non mi capivi. Ma Agostino adesso è un regista coi fiocchi. Come chi no? Ci sta ascoltando non sta capendo niente. Praticamente Agostino dall'altra parte del vetro mi faceva delle facce strane con dei gesti strani e pensavo mi dicesse basta, abbiamo finito, ciao. E invece mi chiedeva se doveva stoppare la traccia. Allora, 23:30 quasi, manca un minuto, allora siamo arrivati alla fine, insomma. Alla fine. Purtroppo. Abbiamo fatto anche oltre quello che di solito facciamo normalmente, ma questo mese è un mese un po' particolare, quindi ci prendiamo queste libertà, che poi da settembre ovviamente non ci saranno più, sarà le canoniche ora e mezza, due, ma comunque abbiamo passato una serata splendida, Serena e anche Andrea, grazie di cuore. Veramente. Grazie a voi. Grazie a voi. Prima però di salutarci. Se uno volesse acquistare il vostro disco, il vostro sito, i vostri contatti, i vostri prossimi concerti, le vostre prossime attività, insomma quello che state per fare. Allora, il nostro sito è www.distrattidalvento.com e c'è una pagina di Facebook anche che è Distratti dal Vento, cioè www.facebook.com/distrattidalvento, basta scrivere Distratti dal Vento e c'è la nostra paginetta. E ci sono, beh, MySpace l'avevamo, adesso non ce l'abbiamo più perché così non ci stava più simpatico. E per comprare il CD ai nostri concerti, ovviamente, o se no, se proprio non riuscite ad aspettare, sul sito dell'Acoustic Music si può ordinare e vi arriva direttamente a casa. E ovviamente, se prendete solo quello, le spese di spedizione sono un po' onerose. Magari comprate anche qualcos'altro. Avete un merchandising anche? No, non abbiamo niente da questo punto di vista. Però sì, faremo sicuramente, perché ci solletica l'idea. In effetti ce ne abbiamo parlato più di una volta. Serena non sa cosa sia il merchandising, no. Le magliette. Magliette, capellini. Esatto, quelli, quei gadget che poi le spillette, che ne so. Ah, ok. No, non abbiamo. Le foto autografate. Esatto. E prossimi live, beh, per il momento abbiamo solo il siamo in parola per diverse cose, ma di sicuro è solo la partecipazione al Festival della Canzone Friulana. 29 settembre. Se siete liberi, esatto, 29 come settembre. La canzone di qualcuno citato qualcuno. Prima, no? Esatto. E basta. Forse un video nuovo anche abbiamo così. Sì, sì. Poi sappiamo di andare in tour in Germania di nuovo, però sì. Sarà difficile che qualcuno qua ci venga a sentire. Perché no? Potremmo prendere l'aereo e venire a sentire. Caspita, la volta buona che svengo. E probabilmente anche in Francia l'anno prossimo. Ah, sì, abbiamo dei contatti anche là. Che... Vediamo di fare qualcosa qui in Italia. Ma sì, ma infatti speriamo. Oltre al Friuli, insomma. Una piccola domanda, giusto per poi... Ma questo Friuli, una terra che genera continuamente artisti straordinari, insomma, c'è un motivo? Forse... Non so, l'acqua? Non so. No, boh, forse l'aria. Perché è una regione di confine, forse, per e cui... Melange. C'è la Slovenia, l'Austria, sì, insomma, penso che sia per quello. Che sia. Siete una più brava dell'altra, l'ho detto anche l'altra sera quando parlavo con chi era Gilles, Maurizio, che non mi ricordo più. L'altra sera quando? Che è venuta una dalle Friuli, che non mi ricordo più. Non ricordo. Vabbè, insomma, non è importante. Nel nostro sito nel c'è nostro scritto. Nel nostro sito. Assolutamente, c'è scritto tutto. Va bene, allora abbiamo terminato. Vi faccio dormire, quindi adesso... Esatto. Regali la nina Buonanotte. Nanna. Una bella nina nanna sì. Adesso. Vi canto un'ultima canzone. Se dormite vuol dire che funziona, perché è effettivamente una nina nanna. E posso fare l'ultima? Sì? Certo che sì. Si intitola Tutto è luce ed è una canzone che ho scritto per uno spettacolo teatrale per bambini ed è stato Andrea a volerla fortemente nel disco dei Deja. E a voi Tutto è luce. Grazie. Allora un grazie di cuore a questo duo, a Serena Finati e Andrea Varnier, che ci è venuto a trovare questa sera e ci ha regalato 2 ore e mezza di musica splendida, non sta a me tanto a dirlo, ma insomma l'avete sentito anche voi, penso che Maurizio e anche Gilles siano d'accordo con me. Indubbiamente, siamo perfettamente d'accordo. Quindi, mi ha fatto un mondo di piacere che insomma avete aderito a questa mia richiesta di venire a fare la vostra musica qui a Blue Radio Veneto. Io vi do l'appuntamento a martedì prossimo. Esattamente, non ricordare, non dimenticare, no, martedì abbiamo tutta una band di ragazze. Ma insomma, ma non... una band femminile, bellissima, ecco, una cosa bellissima. E rockettare alla grande. Il loro disco si chiama Tempisti Imperfetti. Quindi proprio rockettare pulsanti. Sì, adesso... Come si chiamano? Misteriche. Okay. Sì. Cioè, io adesso devo fare una nanna. Ma il rock fa sempre bene alla salute in qualsiasi ora del giorno e della notte. E poi l'appuntamento per chi ama il rock, questo riguarda anche te Andrea, se ti può interessare, ovviamente insomma se ti fa piacere ascoltare, ci sarà mercoledì una serata speciale dedicata al rock, però non ci sarà live, ci sarà solamente musica estrapolata da CD. Quindi con l'intervento di un... di un grandissimo esperto, Di un altro emittente di Verona, l'RCS se non sbaglio. Esatto, sì. E Gianluca Merlin verrà a trovarci, appunto ci presenterà questo special che abbiamo fatto anche l'anno scorso, anche l'anno prima, insomma è quasi una ricorrenza di questo mese qui a Blue Radio Veneto, quindi saranno omaggiati veramente tutti gli appassionati della musica rock. E poi l'appuntamento ancora con il live di giovedì con il Friuli con una tua amica Serena e Elsa Martin, e quindi ancora Friuli qui a Blue Radio Veneto, e un grazie ancora di cuore veramente a voi due, grazie anche all'ospite che ormai ci ha fatto compagnia questa settimana, grazie Gilles. Grazie a voi, è stato un piacere grandissimo. E Maurizio, nonnetto mio, fammi bene, sai, diceva the show must go on. Quindi the show must go on. Serena, cosa dici? Dico di sì, che va bene. E andiamo. E andiamo. Prego. Sono io la luce. Sono qui con te. Non aver paura. Resto sempre accesa dentro al cuore di ogni uomo. Chiudi pure gli occhi e senti il mondo che respira attorno. Tutto è luce se tu guardi dentro all'anima. Nelle stelle luminose, nei lampioni ancora accesi, nei tuoi più dimenticati pensieri, nei resti del giorno appena concluso, chiudi pure gli occhi e senti il mondo che respira attorno. Tutto è luce se tu guardi dentro all'anima. Dentro ad ognuno nella ricerca della felicità, sulle ali azzurre che ognuno di noi ha. Chiudi pure gli occhi e senti il mondo. gira attorno, tutto è luce. Se tu guardi dentro all'anima, ah. Grazie.